L'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, women, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling. La foto, l'immagine pubblicitaria, è una condensazione di senso in uno scatto, una posa, un istante, che deve essere deflagrante, evocativo, colpire in uno shock cognitivo e dei sensi. Le pubblicità rendono esplicito sul piano visivo-estetico idee, valori, desideri collettivi, e inducono bisogni in modo seduttivo, usando immagini per veicolare necessità. E l'immagine deve essere potente, collusiva, allusiva e allo stesso tempo deflagrante, perché i bisogni di cui la pubblicità parla devono essere amplificati e resi nella loro assolutezza, nella loro impellenza e ineluttabilità e imperatività. I desideri devono esplodere nell'atto apparentemente innocente dell'acquisto. Detto in altro modo, le immagini che le pubblicità rappresentano usano desideri, debolezze, inclinazioni, imperativi culturali e sociali per dire e raccontare il bisogno di avere l'oggetto pubblicizzato, per suggerire lo slancio liberatorio dell'ottenimento. Insomma, l'imperativo è: acquista questa cosa e starai meglio. E starai meglio perché si realizzeranno i tuoi desideri, rappresentati dall'immagine associata all'oggetto. Quali sono allora i desideri che, se realizzati acquistando gli oggetti in questione, verranno soddisfatti? Lo stupro e il femminicidio. Non solo la donna è un oggetto dispregiato, appeso, spostato, messo, acconciato, deriso, appoggiato, scompigliato, violentato, picchiato, ucciso, eccetera, eccetera. Il messaggio è chiaro, più o meno esplicito, più o meno evocativo. Il messaggio è: la donna è un oggetto di cui si dispone liberamente, e disporne liberamente significa stuprarla e ucciderla, distruggerla, annientarla. My skin is brown, my hair is platinum blonde today, burgundy tomorrow, my nails is long, I know no sorrow cause. Ain't nothing I care to know, but wear my check so I can get my tics for the Jay-Z show. And I do aspire to be a video holder, and I know Popeye got shot last night, but that's how it go in the ghetto, in the ghetto. What do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl, my name is Lexus. Get it right. My skin was young, so young. It burned and tore. My hair was pressed and curled and tied with ribbons that Sunday morn. September 15, 1963, I screamed in the basement of the church. I screamed the last day I would ever see. Ma and Pa would never know the woman I would grow up to be. I was an involuntary offering for humanity. Why did they hate me? Why they hate me so, so, so? What do they call me? Four little girls. Four little girls. My skin is tough. This woman, this lunch and home mistake and love make a double shift worker, sometimes warrior, sometimes weak. This wife, this single soldier, God-given, God-fearing, God-doubting, this bearer of wisdom and fruit and pain, this once girl, sometimes still. Saint, sinner, teacher, multitasker, friend, this everyday wonder, this woman, this nation builder, this raiser of leaders, of losers, of babies, of boys who will become men, girls who will become women, this. In Italia, il corpo delle donne è diventato ormai uno strumento imprescindibile per fare pubblicità, aumentare l'auditel, lanciare un nuovo film o un disco musicale, educare, modellare, plasmare la cultura. Il corpo femminile vende, a prescindere dal prodotto pubblicizzato, vestiti, scarpe, borse, automobili, perfino le sedi distaccate dell'Università di Bologna. Gli esempi sono innumerevoli e raccapriccianti. Su YouTube, digitando «Se questa è una donna, il corpo femminile nei messaggi pubblicitari» di Elisa Giomi e Daniela Pitti, salta fuori un video chiaro sull'argomento. Basterebbe anche semplicemente uscire di casa e dare uno sguardo ai cartelloni pubblicitari. Il video è un concentrato di pubblicità sessista imbarazzante, perfino per un paese come l'Italia, in cui le donne sono considerate da ogni parte, dai media alla politica alla società civile, addobbi per le vetrine. Solitamente nelle pubblicità in cui il corpo femminile viene letteralmente usato non si percepisce alcun esercizio di volontà. Le donne dei cartelloni pubblicitari sono messe lì da qualcuno, messe in posa, e non esistono come soggetti agenti, pensanti, come soggetti che esercitano un qualche potere, volere su se stesse. E non è un caso, ovviamente. La riuscita di un prodotto sembra essere, per i pubblicitari, direttamente proporzionale alla denigrazione delle donne e alla privazione della loro volontà. Le immagini che chiaramente rappresentano gesti sessuali poi sono le più denigranti, ed anche in questo caso l'impressione è quella dell'uso unilaterale e imposto. Talvolta le immagini di stupri sono davvero esplicite, così esplicite che ci si potrebbe chiedere come mai sia possibile che vengano consentite non solo sul piano culturale ma anche legale queste vere e proprie istigazioni allo stupro e al femminicidio. In molte pubblicità l'assenza di volontà delle donne è evidenziata ulteriormente dall'assenza della testa. Le modelle sono fotografate senza testa, appaiono solo i loro corpi messi in posa, come manichini inerti, lucidi e pronti all'uso, deformati e seviziati, corpi legati fino anche tumefatti, inerti e inermi, è davvero straziante. Ma veniamo a qualche esempio. Usiamo a tal fine le pubblicità che sono state messe insieme nel filmato «Se questa è una donna, il corpo femminile nei messaggi pubblicitari». Vediamo cosa abbiamo in queste pubblicità. Una nota marca di jeans lega una donna sui binari di un treno che sta per arrivare. In un'altra, dal portabagagli di un'auto, sporgono un braccio e una gamba femminili, come se ci fosse il corpo morto di una donna. In effetti c'è il corpo morto di una donna. In un'altra, un uomo tiene una donna sdraiata sul cofano di un'auto al guinzaglio. In una, addirittura, c'è una bara con una donna morta dentro. In un'altra, il braccio di un uomo con una pistola in mano sbuca dal lato sinistro del cartellone e indirizza la pistola contro una donna che si copre il viso con una borsetta. In un'altra, c'è una donna morta con il foro di un proiettile sulla fronte e la pubblicità recita «meravigliosamente eseguito». In un'altra ancora c'è il corpo di una donna in pattini a rotelle, stavolta non è stata uccisa da un uomo, almeno non fisicamente, ma comunque è morta, certo, a meno che non sia stata spinta da un uomo, che giace, dicevamo, su una rampa di scale in una pozza di sangue, per non parlare di quella in cui c'è una donna infilzata su una ringhiera. La pubblicità dell'Audi mostra il viso e le braccia nude di una donna dai capelli lunghi, biondi, e la scritta «Se non te la sei fatta d'estate, fattela d'inverno». La pubblicità della compagnia di navigazione TT Lines mostra, su un grande cartellone all'entrata di una stazione ferroviaria, delle donne riprese di spalle che indossano dei pantaloncini corti, che mettono il sedere in bella mostra e che si dirigono verso l'entrata principale di una nave da crociera e una scritta: «Abbiamo le poppe più famose d'Italia, metteteci il vostro culo». In un'altra pubblicità, l'azienda di calzature Bertoldo mostra un uomo seduto su una sedia, vestito con camicia e jeans. Davanti a lui si vedono soltanto le gambe divaricate di una donna che indossa tacchi e mutandine nere, e tra le mani mostra un reggiseno nero penzolante. Sotto la scritta, non solo marchette, calzature Bertoldo, una pubblicità il cui significato ancora ci sfugge. Un'altra ancora, una pubblicità della Tom Ford Menswear, una marca di abbigliamento maschile, mostra un uomo in mutande vestito con giacca e camicia abbottonata che legge il giornale e accanto a lui una donna completamente nuda che gli sta stirando i pantaloni. Insomma, il messaggio è chiaro, i ruoli sessuali sono così naturali e invitanti, perché mai dovremmo cambiarli? She like woman, she like, she drink coffee, she like, she drink tea, she like, then she go home, she like woman, she like woman, she like woman, she like, dressed in white, she like, sleep all day, she like, ball all night, she like, I can't hear you, she like, I can't hear you, she like, she like woman, she like, dressed in black, sea lion. Sleep all day, sea lion. On her back, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in red, sea lion. Wear a rag, sea lion. On her head, sea lion. The word is sea lion, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Sea lion woman, sea lion. Dressed in red, sea lion. Ad ogni modo, com'è possibile che in Italia, un paese in cui queste pubblicità vengono affisse per strada sotto lo sguardo passivo di tutti, Non esista un movimento di protesta massiccio che chieda il blocco, le dimissioni, in blocco le dimissioni degli inetti pubblicitari che continuano a ricorrere ai vecchi stereotipi sessisti in versione porno soft per vendere i loro prodotti? Che i media puntino sulla pornizzazione della società non è una novità. La novità, o meglio il problema delle donne in Italia oggi, è che molte di loro, troppe, si prestano a questo gioco umiliante. Il libero mercato ha dato alle donne l'illusione che il consumo e il sesso siano la base di partenza su cui edificare il loro potere. Il potere di una donna oggi si misura in base agli oggetti che possiede e a quanto più è in grado di soddisfare i desideri sessuali degli uomini. Con buona pace degli uomini, ovvio, e di molte donne, che si illudono di esercitare una certa libertà di scelta. Il corpo è mio e lo gestisco io, dicevano le femministe negli anni 70. Oggi lo slogan suonerebbe più o meno così: il corpo è mio e lo do a chi dico io. Del resto Sex and the City dimostra chiaramente le mille contraddizioni della donna consumista occidentale. Acquisire potere significa affidarsi al seducente richiamo del consumo e ricavare vantaggio dal fare sesso col primo che passa. Ma rimaniamo in tema di maschilismo nostrano. Nell'articolo di Newsweek di Barbie Nadeau, tradotto da Internazionale del 26 novembre 2010, una proprietaria di una gioielleria di 57 anni afferma: in TV e sui cartelloni pubblicitari le donne sembrano tutte puttane, perché è quello che gli uomini vogliono vedere. Sono gli uomini a produrre gli spot pubblicitari, a guadagnarci sopra e a decidere in che modo i prodotti devono essere pubblicizzati. E fino a qui niente di nuovo, direte voi. La vecchia storia del corpo femminile impiegato come cartina tornasole dell'economia dei consumi è, lo sappiamo tutti, l'ennesimo stratagemma sessista per fare soldi e tenere le donne sotto controllo. O meglio, in casa e sotto le lenzuola. Quello che non si capisce però è che, nonostante i risultati ottenuti dal femminismo, la donna in Italia rimane ancora l'angelo del focolare e il gingillo sessuale da mostrare e da usare ogni volta che se ne ha voglia. La cultura dell'harem, che è stata rilanciata dalla politica sessista berlusconiana, che ha assunto la velina nuovo modello di donna emancipata, ha fatto da sfondo al secolare maschilismo italiano. Non c'è bisogno di rivangare la vecchia legislazione sul diritto di famiglia per sapere che il nostro è un paese dove il maschilismo ha regnato incontrastato dall'epoca della Roma antica e che soltanto le lotte di liberazione delle donne hanno saputo smuovere di qualche centimetro. Ad ogni modo, è bastato che un ottantenne maschilista incallito, proprietario del 95% del mercato televisivo italiano, salisse al governo, cosa non da poco in verità, perché l'Italia slittasse al 74esimo posto nella classifica mondiale in materia di diritti delle donne, dopo la Colombia, il Perù e il Vietnam. Mentre in altri paesi europei, continua Nadeau, la parità di genere viene attivamente incoraggiata perché è considerata un fattore di crescita nazionale, Berlusconi ha guidato l'Italia nella direzione opposta. E ancora, il sessismo in Italia non è un'invenzione di Berlusconi. Il Premier l'ha rispolverato tirandone fuori gli aspetti peggiori ed elevandolo a norma di governo. È chiaro che l'uscita di scena di Berlusconi darebbe una boccata d'aria alle donne italiane, che sempre di più, grazie al modello femminile lanciato dal Premier, hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro retribuito che valorizzi le loro capacità piuttosto che il loro aspetto fisico e permetta a chi lo desidera di mettere al mondo un figlio senza rischiare di perdere il lavoro. Sappiamo che, come scrive Nadeau, una forza di lavoro femminile istruita per Berlusconi non è nient'altro che una barzelletta. La battuta di Berlusconi quando disse alle donne italiane che cercano lavoro che farebbero meglio a cercarsi un uomo ricco dimostra in realtà che ormai la visione berlusconiana delle donne riflette la visione generale che gli uomini, molti in Italia, hanno di noi. La solita storia. Soltanto che stavolta all'estero è l'immagine degli uomini italiani a risentirne di più e non delle donne. In breve, gli italiani risultano ancora dei maschilisti incalliti che hanno problemi ad accettare l'evoluzione del ruolo delle donne nella società italiana. Ora, per quale motivo le poche voci che hanno criticato questa situazione pubblicamente prima degli ultimi tristi fatti sulle serate del primo ministro, eccetera, non sono state ascoltate? Perché molte donne e molti uomini continuano a recriminare questo stato di cose come liberamente scelto e certamente auspicabile? Denigrare le donne che si prestano allo sfruttamento sessuale in politiche e nei media e lodare gli uomini che ne fanno uso è lo sport nazionale, il modo più semplice di evitare di pensare e di prendere posizioni e continuare nel frattempo a conservare lo status quo. Siamo abituati a pensare che quel che ci vuole siano leggi più incisive che tutelino le donne dal maschilismo, ma ciò di cui facciamo fatica a renderci conto è che più di tutto in effetti le donne in Italia hanno bisogno di cambiare la loro mentalità. Se le donne cambiano, è stato detto, anche gli uomini cambiano e con loro la società intera. Ma al di là se responsabilizzare gli uomini aiuti velocemente a cambiare le cose o se non siano piuttosto le donne che devono imparare a farsi rispettare, il problema reale è che nessuno, nemmeno le femministe, hanno idea di come questo possa avvenire in tempi brevi. O meglio, le idee ci sono, e tante, ma le donne che occupano posti di potere nei media, in politica e in tutti gli altri settori sono così poche che la loro azione risulta insufficiente a smuovere le leve del potere in questo paese. Ma è solo così? O piuttosto manca anche il coraggio di affermare che evidentemente le femministe e le donne in generale hanno bisogno di sfoderare altri e più incisivi metodi di lotta per liberarsi da un sessismo culturale e politico. Sotto al video "Se questa è una donna", una ragazza, rispetto alla questione del femminismo e se sia o meno ancora necessario, commenta così: "Le nostre madri si sono liberate da un'oppressione esterna. Noi invece ci mascheriamo da donne emancipate e siamo le prime ad autocondannarci alla misoginia. La lotta va fatta dentro di noi. Abbiamo tutto quello che ci serve, politicamente, socialmente e strutturalmente parlando. Non ci serve un movimento femminista." Ma ricapitolando, le donne danno il loro consenso al maschilismo, per cui devono cambiare mentalità. Comunque, al di là della modalità con cui ognuna vuole e riesca ad affermare il suo sdegno e la sua autonomia rispetto ai modelli imperanti, sorprende come molte donne siano ancora restie a farlo e come parecchie altre non esentano a sentir loro neanche la minima necessità. La domanda è: cosa stiamo aspettando? Perché tardiamo tanto a ribellarci contro questo denigrante stato di cose? That is not what I do. I ain't no damsel in distress, and I don't need to be rescued. So put me down, punk. Wouldn't you prefer a maiden fair? Isn't there a kitten stuck up a tree somewhere? But it seems like I've got everyone fooled. Every time I say something they find hard to hear, they chalk it up to my anger and never to their own fear. Imagine you're a girl just trying to finally complain, knowing full well they prefer you were dirty and smile. Stuck up a tree somewhere. And generally my generation wouldn't be caught dead working for the man. And generally I agree with them. Trouble is, you gotta have yourself an alternate plan. And I have earned my disillusionment. I have been working all of my life, and I am a patriot. I have been fighting the good fight. And what if there are no damsels in distress? What if I knew that and I called your bluff? Don't you think every kitten figures out how to get down? whether or not you ever show up. Be a pretty girl. I wanna be more than a pretty girl. Questo è lo stato di cose nel nostro paese. Come spesso accade quando ci deprimiamo pensando alla nostra cultura, iniziamo a cercare degli esempi diversi, magari in paesi lontani dove ci sono leggi che incentivano le pari opportunità e l'integrazione delle donne nella vita politica e culturale. Un paese molto vicino a noi, anche culturalmente, dove nonostante la tradizione macista e cattolica oggi si respira un'aria diversa, è la Spagna. In Spagna, dove sono presenti 7 ministre donne su 15, la legge per l'uguaglianza e contro la violenza sessuale definisce come illecita la pubblicità che promuove l'immagine stereotipata della donna e l'immagine che ne viola la dignità attraverso un uso improprio del corpo. In un'interessante intervista mandata in onda nella trasmissione Presa Diretta, Senza Donne, dedicata alla situazione delle donne in Italia, Giovanna Cosenza, professore associato presso il Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell'Università di Bologna, fa l'esempio di una nota marca di yogurt che in Italia presenta una pubblicità in cui si vede una donna a terra accovacciata in posizione fetale, con una grande bocca dipinta sul corpo. Mentre in Europa lo stesso prodotto viene pubblicizzato rappresentando persone diverse, donne, uomini, bambini, anziane, anziani e adolescenti, che saltano, sorridono e gioiscono in contesti diversi. Quale spiegazione dare a questa differenza abissale? Perché a noi viene propinato il solito corpo di donna nuda anche per pubblicizzare uno yogurt? Evidentemente l'immagine dell'Italia, anche all'estero, suggerisce che si può fare pubblicità efficace solo se si usa il corpo delle donne. Esiste in Italia l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, IAP, che ha il compito di sanzionare anche questo tipo di pubblicità. Negli articoli 9 e 10 si sancisce che la comunicazione commerciale deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione. La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale. Purtroppo sembra che non funzioni a sufficienza, vista la mole di cartelloni e spot pubblicitari denigranti che subiamo ogni giorno. Shoes. Don't you dare stand in front of me and tell me what a woman must do. Until you have walked, run, fought a mile in her shoes, don't you dare stand in front of me and tell me. Child's birth, child's death, husband's abuse, tricking to buy baby shoes. She must be called a muse, which is just a synonym for use. Put upon pedestals, dainty and protected, and because of that disrespected, Victorianized. Made a paradox of famous anonymity, left to go insane with too much femininity, staring at yellow wallpaper. Audre Lorde diceva: non si può smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone. E probabilmente aveva ragione. E allora, forse, dobbiamo capire profondamente che è necessario iniziare, partendo da noi stesse, una vera e propria rivoluzione. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up, get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Alla fine della puntata ed è arrivato il momento, prima di salutarci, di parlarvi dei testi e delle autrici delle canzoni che abbiamo ascoltato questa sera. La prima canzone era Four Women di Ursula Raque, poeta, artista e performer acclamata della canzone parlata della scena musicale statunitense. È la rappresentante di un movimento artistico che pian piano sta adottando i suoi contenuti alle tematiche vicine alle donne, in particolare nell'ambito dell'hip hop e della musica urbana. La sua bellissima poesia è dedicata alle quattro bambine di colore che nel 1963, nella cittadina di Birmingham, Stati Uniti, furono uccise da una bomba lanciata dai razzisti bianchi sulla chiesa battista della città, in cui le bambine si trovavano a seguire il rito domenicale. Gli autori dell'omicidio furono condannati soltanto nel 1977, mentre il terribile evento infiammò il movimento dei diritti civili e, assieme ad altri, portò all'approvazione di alcune leggi sui diritti civili e alla cancellazione di quelle sulla segregazione razziale. La seconda era Sea Line Women di Nina Simone, La donna che osserva l'orizzonte. È una tradizionale canzone folk, originaria degli Stati Uniti del Sud, e cantata da bambini durante i loro giochi all'aperto. Nella terza canzone di Annie DiFranco, Not a Pretty Girl, cioè Non sono una bella ragazza, la cantante ribadisce la sua posizione rispetto allo stereotipo della cara ragazza, la fata turchina e la gattina indifesa che aspetta appollaiata su un albero che qualcuno la faccia scendere e la tragga in salvo. In questa canzone Anni di Franco sottolinea l'ipocrisia di un certo pubblico e di certi interlocutori che, ogni volta che la sentono dire cose che non approvano, le rifiutano, interpretandole soltanto come le cattiverie di una ragazza arrabbiata, piuttosto che come verità che non vogliono riconoscere a causa delle loro paure. Dire le cose come stanno, secondo Anni di Franco, implica sempre un sacco di problemi, perché la gente non accetta che le donne dicano la verità e gettino via tutte quelle maschere da belle fatine innocenti che ci si ostina a cucire, a cucire loro ancora addosso. La sesta canzone era di Ursula Racker, What a Woman Must Do, e la settima, ultima, di Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Siamo arrivate ai saluti, vi ripetiamo ancora una volta il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete inviare le vostre osservazioni, i vostri commenti. L'indirizzo è connettive@gmail.com. Scrivete. Ci risentiamo martedì 1 marzo. Ciao a tutte. Beneath my feet, descending into air. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. Against my face.